vita nei campi. Settimanale per gli agricoltori del Friuli Venezia Giulia. Domenica 16 settembre, il sole in regione è sorto alle 6.46 e tramonterà alle 19.18. La luna è crescente e siete all'ascolto di Vita nei Campi. Buongiorno ad Armando Mucchino e Lara Boccalon. Si definisce un cantastorie del vino, storie che posta su Facebook per raccontare quel mondo magico che gravitava e gravita ancora nelle osterie e nei posti dove un buon bicchiere è ancora un richiamo alla socialità. Lui è Matteo Bellotto, ospite del pezzo di apertura che sta spopolando con la sua pagina in internet. A seguire la rubrica del bio con le attenzioni che questo mondo riserva a quello della scuola, dove vuol far passare il suo messaggio alle generazioni del domani. Anche nell'orto è pratica scorretta di sodare il terreno in profondità. Ce ne siamo accorti da poco tempo e si sta cercando di cambiare quella che era una convinzione radicata. La santoreggia è invece la pianta del giorno, tra le sue proprietà curative e alimentari che in certe zone le hanno ritagliato un'aura di magia. Nello spazio più propriamente alimentare riscopriamo la pasta butada, piatto comunissimo un tempo che oggi ci fanno di nuovo assaggiare gli chef stellati. A seguire, come di consueto, l'andamento dei mercati agricoli, le previsioni del tempo per la settimana entrante, con una breve nota di climatologia locale e il proverbio agricolo friulano della settimana di Vita nei Campi. Storia di vino e Friuli Venezia Giulia, il nome di una pagina Facebook sempre più cliccata, quasi 11.000 i like in un anno, che ovviamente parla di vino e Friuli Venezia Giulia. La scrive ormai da un anno Matteo Bellotto, che nel mondo del vino ci lavora e anche per questo ha voluto proporre una nuova via per raccontare il vino oltre i lessici storici, tecnici e, lasciatecelo dire, anche retorici di molti autori. Abbiamo parlato di storia. Perché? Perché dobbiamo riappropriarci delle storie che vengono vissute e raccontate tutti i giorni e sempre nei nostri paesi. Abbiamo un magma intenso e molto importante di racconti di vita vissuta, di persone che rischiano di essere dimenticate, che sono importantissime e che sono portatrici di un qualcosa che è l'anima profonda della nostra terra. Ed è un'anima che viene raccontata attraverso i vini, coi suoi sapori e coi suoi profumi, che però ha bisogno di essere raccontato in un altro modo. Il pensiero va subito all'osteria. L'osteria è il luogo, io l'ho definita il luogo dove l'aquila del Friuli scende dalla bandiera e chiude le sue ali per andarsi a riposare. È un po' un modo poetico per vedere un momento in cui si depongono le armi e le maschere che siamo costretti a mettere tutti i giorni per poterci guardare in faccia e essere quello che siamo attraverso il vino. Ci sono ancora queste osterie, o meglio, ci sono ancora queste persone da osteria, questi novellieri del vino? Finché ci sarà vino ci saranno ancora le osterie e finché ci saranno le osterie ci saranno ancora queste persone. Ci sarà sempre il bisogno di raccontarsi le storie, perché fino a quando saremo vivi le storie le vivremo, per cui il luogo per poterle raccontare ci sarà sempre e lo andremo a trovare quando non ci sarà. Il contatto con il vino. Il contatto con il vino per me è un contatto di enorme rispetto. Il vino è una di quelle sostanze che ci costringe sempre a fare un passo indietro, a non poter mai dire niente di più di quello che lui dice e a dover dare un grande rispetto soprattutto per il fatto di chi lo fa e di chi mette le mani nella terra. Il vino è capace di andare ad una profondità della nostra terra che noi non andremo mai ed è capace di raccontarne l'anima molto meglio di noi. Come mai Facebook e non il libro tradizionale? Perché probabilmente se avessi scritto il libro tradizionale a questo punto sarei a raccontarlo a mia madre, a mia sorella e forse a mia moglie. E probabilmente quella di Facebook è l'obiettivo più immediato e lo strumento più immediato per poter diffondere le storie in maniera veloce e in maniera differente rispetto a un blog, rispetto a un libro e rispetto a qualsiasi altra cosa. Se le storie interesseranno come stanno interessando, beh, qualcuno si avvicinerà. Riscontri. I riscontri sono andati oltre ogni mia immaginazione. come detto, nel giro di un anno sto per superare gli 11.000 like, ogni storia ha un range che supera le 20.000 utenze e i commenti sia in pubblico che in privato sono estremamente positivi, perché si vede che le persone hanno bisogno di sentirsi raccontare le storie che conoscono, ed è molto, molto rincuorante e fa molto piacere, anche perché alle spalle c'è un lavoro enorme, del tutto autofinanziato e di grande spessore che sto facendo. Lei prima ha detto che bisogna riappropriarci del vino. Chi ce lo sta togliendo? Il vino ce lo stiamo togliendo noi stessi. Ce lo stiamo togliendo noi stessi e ce lo sta togliendo molto spesso un linguaggio che viene utilizzato da un sistema di conoscenza del vino che mette troppo spesso davanti le parole rispetto a quello che sono i significati. Molto spesso i sommelier, dei quali io un giorno vorrò far parte perché ci sto studiando, però tendono a utilizzare troppo spesso delle parole che non vanno nell'orizzonte di quelle che sono le persone. Dobbiamo ridare le parole alle persone. Non possiamo rubare con certi termini quello che sono i significati che il vino ci sta dicendo. Non possiamo nasconderci dietro le parole. È già il vino a parlare. È ricominciata la scuola e anche i temi del bio, del biologico, tornano sui banchi. Ci dice tutto Cristina Micheloni, che ci cura questa rubrica. Sì, ci piace molto questa cosa di tornare bambini, è una delle cose che ci piace di più come associazione, e siamo ben felici di poter dire che anche quest'anno scolastico, quello che sta per iniziare, potremo offrire alle scuole primarie della nostra regione, grazie al sostegno dell'ERSA, l'opportunità di proseguire o iniziare, per chi non l'avesse ancora fatto, tutto il percorso su alimentazione e agricoltura locale e agricoltura biologica che abbiamo iniziato da alcuni anni. Durante l'estate abbiamo messo a punto dei nuovi materiali, quei nuovi libretti, tutti a misura di bambino. Abbiamo anche raccolto molte delle testimonianze di maestre e bambini. Se andate sul nostro sito, che è riportato alla pagina Facebook, trovate anche dei video e dei disegni, cose molto molto divertenti, devo dire, e molto utili, credo, al processo educativo. E quindi i dirigenti scolastici di tutta la regione hanno ricevuto in questi giorni una lettera direttamente dalla regione che offre questa possibilità di attivare presso i propri plessi un percorso che comprende formazione per gli insegnanti, degli incontri con i bambini in classe, dei laboratori, quindi molto pratici, delle merende bio per assaggiare i prodotti locali e anche delle visite in azienda biologica. Il tutto per far crescere la coscienza di cittadini consapevoli nei bimbi della nostra regione, e anche con l'auspicio che qualcuno decida di fare l'agricoltore biologico crescendo, e per impattare proprio sulla consapevolezza, sulla capacità di scelta critica. Tutto questo percorso ovviamente ha una sua metodologia consolidata, ha dei materiali dedicati e li potete visionare appunto anche sul nostro sito, e chi è interessato può fare domanda rispondendo alla lettera che appunto i dirigenti hanno ricevuto, oppure rispondendo o mandandoci una mail all'indirizzo che trovate sulla pagina Facebook della trasmissione. Se non vi è arrivata la lettera, se non ci sono delle cose da chiarire, non fatevi nessun problema, scriveteci. Io voglio chiudere però con una frase dello scorso anno di due bambini delle primarie. Uno che alla fine del percorso ha proclamato, l'agricoltura bio rispetta la terra, l'erba, i fiori, i papaveri e anche i germi buoni. E quindi mi piace molto questa parte che dice: ci sono i germi, non sono tutti cattivi, come purtroppo per molti anni è stato insegnato. E l'altra frase epica di un altro bambino di circa 7 anni è che a fine del percorso ha detto: va bene, adesso vi devo lasciare perché devo andare a bagnare l'orto. E quindi ci siamo molto, credo, è una delle cose che come associazione dà maggiore soddisfazione, e vedere crescere questa consapevolezza non è poca cosa. Era convinzione che dissodare il terreno in profondità fosse una pratica corretta, nulla di più sbagliato, e solo da qualche tempo stiamo correndo ai ripari, un discorso che vale anche per l'humus dell'orto, come ci racconta Stefano Montello nella sua rubrica. Long John Silver, cuoco e pirata, protagonista del libro di Robert Louis Stevenson, L'isola del tesoro, cercava il tesoro sottoterra. Così molti altri cercatori scavano, rovesciano badilate di terra, sudano, sbuffano, imprecano, nella speranza di trovare là sotto il premio anelato, qualcosa che possa cambiarti la vita definitivamente. È opinione comune che i tesori vadano cercati a grandi profondità. Sarà per questo che una mentalità a dir poco bislacca, a dir giusto sbagliata e ignorante, negli ultimi 30-40 anni ha suggerito che le arature andavano fatte a grande profondità. Rovesciare la terra di 50 centimetri serviva a, virgolette aperte, portare in superficie terra vergine, chiuse virgolette, nell'illusione che la terra vergine fosse terra fertile. Errore. Non che i contadini avessero letto tutti l'Isola del Tesoro. Era più probabile che ci fosse, e che ci sia ancora, una sorta di corsa all'oro instillata dall'idea criminale che la ricchezza della terra fosse inesauribile, ed indotta anche al lavorio dei fianchi, dei contadini, dalle multinazionali dei concimi e dei fertilizzanti. Ognuno fa il lavoro suo, per carità, ma oggi sappiamo alcune cose, che le ricchezze della terra non sono inesauribili e che non si trovano a grande profondità, che ne scriva Stevenson. La lavorazione della terra in profondità, dei 30 cm in poi, produce eccessiva zollosità che si traduce in maggior areazione, conseguenza una maggiore mineralizzazione che abbassa il tenore di sostanza organica. Sostanza organica e humus non sono esattamente la stessa cosa, ma per capirci, se interi a grande profondità ciò che sta in superficie, scarti delle colture precedenti, erba, compost, letame, le cacche dei lombrichi e le bucce dei peperoni che ti stanno pesanti sullo stomaco, non ne avrai in cambio alcunché, andrà perduto. La mentalità sta lentamente cambiando, si sono pure inventate delle macchine che non arano ma ripuntano il suolo, ed è un segno molto buono questo, significa una riscoperta di attenzione per la terra. Speriamolo almeno. A proposito, humus significa suolo, terra, terreno, ma suona così simile a uomo, no? Continua la rassegna delle piante che si possono trovare anche nella nostra regione. Oggi Antonino Danelutto ci parla della Santoreggia e delle sue innumerevoli proprietà che in certe zone le conferiscono addirittura un'aura magica. Fin dai tempi antichi la Santoreggia domestica, Satureia hortensis, era conosciuta non solo per le sue proprietà medicinali, ma anche perché era ritenuta pianta afrodisiaca, tanto che ai monaci, per evitare che cadessero in tentazioni, era vietato di coltivarla negli orti dei monasteri. La Santoreggia montana, Satureia montana, in friulano Perdon, Salugè, che ha proprietà analoghe, invece non è coltivata ma spontanea. È un'aromatica perenne, legnosa alla base, alta circa 20-30 cm. Ha foglie opposte, lineari lanceolate, coriacee, ghiandolose, con delle brevi setole sul margine. I fiori sono riuniti a 2-3. Raramente più alla scella delle foglie, e hanno una corolla rosea o pallida con la fauce punteggiata di violetto. È abbastanza comune, oltre che sul Carso, in buona parte del Friuli, ad eccezione della zona montana e della bassa pianura. Predilige i terreni calcarei, di prati aridi, di luoghi sassosi e rocciosi. Le foglie e le sommità fiorite fresche, raccolte in estate, hanno un sapore piccante simile a quello del timo. Tagliate finemente, aromatizzano minestroni di verdure, salse, intingoli, carne, specialmente di coniglio e agnello, selvaggina, insaccati, pesce, formaggi. Aggiunte durante la cottura ai legumi, fagioli, lenticchie, fave ed altri, non solo li insaporiscono, ma anche, grazie alle loro proprietà carminative, favoriscono l'espulsione dei gas intestinali che essi producono. Si possono essiccare, conservare in vasi di vetro ben chiusi e sminuzzare al momento dell'uso. Nella medicina popolare le foglie e le sommità fiorite, che contengono oltre ai tannini un olio essenziale ottimo battericida e fungicida, sono impiegate nelle digestioni difficili, nelle flatulenze, nelle infezioni delle vie respiratorie e urinarie. Per uso esterno sono utili nelle piccole ferite, nelle punture di insetti, nell'igiene del cavo orale e contro la forfora e la caduta dei capelli. Nell'acqua di bagni e pediluvi tolgono la stanchezza. La Santoreggia è un importante componente di cosmetici, profumi e liquori. Essiccata e posta negli armadi e nei cassetti della biancheria in piccoli sacchetti, li profuma e li protegge dalle tarme. Chi Chissà quante volte l'avete mangiata trattandosi di un piatto una volta tradizionale. Oggi, dopo un periodo di oblio, con la riscoperta degli chef stellati, sta tornando sulle nostre tavole. Stiamo parlando della pasta butada, di cui oggi Roberto Zottar ci racconta storia, virtù e non ci fa mancare la ricetta. Una rivisitazione moderna della pasta butada. I brodi nel tempo si sono accompagnati ad una serie di guarnizioni, come sono definite nei ricettari storici le paste aggiunte al brodo. Mi riferisco ad esempio alla pasta butada, ai gnocchetti o alle varie frittatine per brodo fatte con farina o semolino, uova e prezzemolo, fritte nel burro e poi tagliate a quadretti o a tagliatelle. Butada significa versata, cioè un impasto di uova e farina e sale colato in brodo. Un piatto svelto per chi ha poco tempo. E pensare che in passato il tempo dedicato alla cucina era quello che scandiva lo scorrere della giornata e non un momento strappato alla frenesia quotidiana. La pasta butada in regione è un piatto di tradizione con cui un tempo i contadini accoglievano gli ospiti. Le paste, nell'alimentazione tradizionale, infatti, avevano un'accezione di cibo festivo. Si consumava la sera o prima delle grandi feste, matrimoni o battesimi, per preparare lo stomaco. Si accompagnava a brodo di carne ristretto, solitamente gallina, e data la sostanziosità del piatto, veniva servita anche alle puerpere dopo il parto. Maria Stelvio, negli anni 30, ha codificato una ricetta di pasta butada in versione asciutta, pasta che lei chiamava passerotto, probabilmente come traduzione dal tedesco Spätzle. Da alcuni anni uno chef stellato di Cormons ha riscoperto il piatto, ribattezzandolo invece girini per la loro forma e servendolo in bocce di vetro che vengono scoperchiate a tavola per sprigionare tutto il profumo delle erbe e degli aromi. A seconda delle stagioni, i girini sono conditi con carne bianca e verdurine, germogli e fiori spontanei o salsiccia e rosa di Gorizia o erbe porcine. Per realizzarli, amalgamato in una terrina con una frusta, 4 uova con 150 g di farina e un pizzico di sale. Fate riposare l'impasto e versatelo in uno scolapasta posto sopra una pentola di acqua bollente. Le gocce di pasta, cadendo, formeranno i girini. Appena vengono a galla, scolateli in acqua fredda. Al momento del servizio, in una padella, sciogliete del burro. Aggiungete verdure di stagione, ad esempio 80 g di funghi porcini e 120 g di zucchine tagliati a nastri molto fini, 8 fiori di zucca aperti in 4 e insaporite con sale e pepe. È molto importante che le verdure siano appena scottate, croccanti e non cotte. A questo punto fate saltare nelle verdure i girini e impiattate con sottili scaglie di formaggio, un filo d'olio e per decorare alcune foglie di origano o basilico o fiori di aglio ursino o chicchi di melagrana. Buon appetito! E ora il microfono ad Amos D'Antoni per l'andamento dei mercati agricoli. Andamento diversificato, con spunti di flessione venerdì scorso alle contrattazioni cerealicole a Camera di Commercio di Udine, dove il mais con umidità 14% è stato quotato tra 16,60 e 16,80 euro al quintale IVA esclusa. Quello con 25 di umidità, non trattato alla Camera di Commercio di Udine, viene pagato a 13,20 il quintale. Il frumento tenero buono mercantile tra 18,70 e 19 euro. L'orzo tra 18,90 e 19,40. Rispetto ad un anno fa, il prezzo del mais è diminuito di 20 centesimi e quello del frumento è aumentato di 2,30 euro il quintale. Nel comparto zootecnico si rilevano cenni di stabilità e i mercati dei bovini a macello quotano le vacche fine carriera e prima qualità a peso morto tra 2,50 e 2,90 euro al chilo e quelli di seconda tra 1,90 e 2,45. Quotazioni pure ferme nel settore dei vitelli da ristallo, dove i blubelga maschi vengono pagati tra 5,80 e 6,50 euro al chilo IVA esclusa, i pezzati rossi tra 4,80 e 5,30, i frisoni tra 1,80 e 2,30 e i bruni tra 1,70 e 2 euro al chilo. Andamenti differenziati nel settore suinicolo, dove i lattonzoli franco partenza di 40 kg sono pagati a 1,94 euro il chilo IVA esclusa e i grassi da macello tra 1,35 e 1,37. Tra lunedì scorso è ripresa l'attività della pesca e i prezzi sono in diminuzione, pertanto al mercato della cooperativa pescatori Milano Lagunare i branzini, suddivisi in piccoli, medi e grandi, sono quotati tra 20 e 28 euro al chilo al netto dell'IVA, le sogliole tra 9 e 22, i cefali tra 1,50 e 7 euro. le orate tra 9 e 17, i latterini a 10 euro il chilo, le canocce a 8, le triglie a 2, le passere tra 11 e 14 euro, i palombi tra 4 e 11 e i canestrelli bianchi a 8 euro il chilo. Infine, scambi attivi sui mercati avicunicoli, con i polli a terra pagati tra 1,05 e 1,07 euro al chilo, i tacchini maschi tra 1,31 e 1,33, le faraone tra 2,20 e 2,24, le anatre tra 2,10 e 2,14, i conigli oltre 2,5 kg quotati dal CUM di Verona tra 1,53 e 1,59, le uova da 63 a 73 grammi a 13 centesimi il pezzo. E con il previsore dell'ARPA Osmer, Arturo Puccillo, l'andamento del tempo per la settimana entrante, più un breve contributo di climatologia locale. Giunti a metà settembre, è tempo di un primo bilancio. Parliamo ancora di estate, in un mese che rappresenta l'inizio dell'autunno meteorologico, e ricordiamo parla del primo settembre. Tuttavia l'inizio del mese faceva presagire altri destini, come l'anno scorso. Piogge abbondanti e diffuse, specie sul Goriziano, hanno interessato le ore notturne del primo. Poi nel pomeriggio un temporale stazionario su Lignano ha portato piogge molto intense, dell'ordine di 50-100 mm in due ore, ma localmente si sono registrati quantitative anche superiori. Nei giorni immediatamente seguenti la depressione, conseguenza del fronte, ha mantenuto condizioni di variabilità, con Borino che ha fatto risalire le temperature sui 27 gradi su pianura e costa. Dopo il 5 le massime sono addirittura risalite oltre i 30 in pianura, con un mare a ben 25 gradi. I giorni tra il 6 e l'8 hanno visto un incremento dell'instabilità atmosferica localizzata a causa della convergenza tra il flusso atlantico sull'Europa centrale e correnti da sud-ovest sui versanti sudalpini, ma i rovesci temporali risultanti non hanno né incrementato gli accumuli pluviometrici né hanno permesso un deciso calo termico. Da segnalare in particolare lo zero termico a 4.500 metri tra l'11 e il 12 del mese e i quasi 26 gradi del mare, valore prossimo ai record storici del 2011. Tra venerdì e sabato scorsi, un modesto fronte ha portato qualche veloce temporale notturno e da oggi l'anticiclone torna a prevalere, con tempo stabile e ancora estivo. Domani, qualche isolato temporale sui monti accompagnerà il passaggio di un modesto fronte a nord delle Alpi, mentre martedì prevarrà il sole e il tempo stabile. Le massime in pianura sfioreranno e raggiungeranno i 30 gradi, mentre il mare resterà sui 24-25. Mercoledì e giovedì saranno giornate ancora estive con cielo sereno, massime verso i 30 gradi e qualche possibile fenomeno di instabilità in montagna, poco rilevante e comunque poco probabile. Venerdì una saccatura atlantica sembra avvicinarsi all'Italia occidentale, ma è incerto attualmente se entrerà nel Mediterraneo, coinvolgendo direttamente le regioni nel prossimo fine settimana, o se rimarrà confinato sull'Europa occidentale. E quindi per essere correttamente informati sull'evoluzione, vi invitiamo a seguire gli aggiornamenti dell'Osmer ARPA sul web, sui social network e naturalmente sui programmi radiofonici e televisivi della RAI regionale. Alla prossima! Termina qui la puntata. Anche oggi vogliamo lasciarvi con un proverbio friulano. A Santa Croce, pan e coccolis, ovvero il giorno della Santa Croce, il 14 settembre, sono mature le noci che si possono mangiare con il pane. La farina del grano raccolto a giugno, infatti, è già pronta. Coordinamento tecnico di Andrea Marmai, il nostro indirizzo mail è vitaneicampi@rai.it e potete trovarci sulla pagina Facebook Vita nei Campi e riascoltarci sulla pagina web www.rainews.it/tgr/Friuli Venezia Giulia. Armando Mucchino, Lara Boccalone e tutta la redazione vi ringraziano e danno appuntamento a domenica prossima. Avete ascoltato? Vita nei campi. Settimanale per gli agricoltori del Friuli Venezia Giulia.